Picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. La montagna vissuta a 360 gradi. Puntata numero 51 di Picchi di Frequenza, che apre con l'incontro con Rita Zavka, che ci presenta la nona edizione del Festival Vette in Vista. Proseguiamo poi con l'intervista a Paolo Masala in occasione della sua rubrica di Pedagogia della Montagna, che giunge oggi alla seconda edizione, mentre in chiusura la recensione dell'ultima fatica di Paolo Cognetti a cura di Luca Trada, ricordando che Paolo sabato prossimo, il 4 febbraio, sarà al Piano Terra di Milano in occasione della festa di tesseramento dell'APE. Nel 1953 Edmund Hillary e Tenzing Norgay divennero le prime persone ad arrivare in cima al Monte Everest. Al tempo e nel periodo successivo le comunicazioni erano comprensibilmente poco sofisticate. Dei podisti nepalesi consegnavano fisicamente i messaggi tra l'Himalaya e la capitale del Nepal, Kathmandu, un viaggio di oltre 64 km su terreno accidentato. Non era insolito aspettare 2 settimane per ricevere una risposta. Sulla montagna vera e propria le spedizioni usavano le radio per comunicare. La squadra di Hillary usava un'unità radio di circa 2 kg, un peso non indifferente per alpinisti abituati a portare sulla spalla 10-15 kg. Oggi le radio sono ancora il principale strumento di comunicazione per gli scalatori, ma ora le unità sono abbastanza piccole da entrare in tasca e riescono comunque a reggere le condizioni meteo estreme della montagna. Il primo articolo di oggi è tratto da Motherboard, un sottosito di Vice Italia, e ha come titolo «Come usare internet sulla cima dell'Everest». Sembra un titolo cretino, in realtà l'articolo non è assolutamente male. Mentre io vi segnalo anche due contributi che forse non avete letto e che vale la pena di scoprire sulla triste e brutta vicenda di Rigopiano. Il primo, proveniente dal portale di Genuino Clandestino, su cui non ci siamo mai affacciati da questi microfoni, il titolo è Tra Sisma e Sistema, ed è insomma un contributo che molto breve ma che può valer la pena di scoprire. Il secondo, invece, selezionato in occasione di questa rapidissima rassegna stampa di settimana, ha come titolo Dai campi al campo, per un'inchiesta sul dopo sisma dei Sibillini. Molti di voi, per quello non ci torno sopra, avranno già letto il brano inchiesta dal sito di Wuming. La prossima settimana punterei ad avere nostri ospiti proprio le Brigate di Solidarietà Attiva, che hanno invece promosso questo appello, così come la settimana prossima, e questa può essere un'anteprima interessante, potremmo avere la presentazione del libro 4 passi in famiglia, trekking, escursioni in bicicletta in Trentino Alto Adige. Perché uno dei contributi di quest'oggi, l'incontro con Rita, è arrivato proprio attraverso il contatto di Micol. Quindi la parola a Rita Zavka, che ci presenta Vette in Vista, e insomma vediamo come andrà avanti questo nostro tour proprio la prossima settimana. Allora, la nostra associazione nasce purtroppo perché non c'è più Stefano. Stefano era mio figlio. E io e insieme a tanti amici di Stefano abbiamo deciso di dare vita ad un'associazione che non ricordasse Stefano come persona soltanto, ma ne ricordasse le idee e in qualche modo potesse svilupparle. Per cui quando Stefano ha deciso di essere una guida alpina e di lavorare in Umbria, ci siamo tanto stupiti, però ad un certo punto abbiamo capito che lui voleva sviluppare la cultura della montagna e di un certo tipo di montagna anche in Umbria, per cui noi abbiamo deciso che per continuare l'opera di Stefano, visto che non potevamo fare le cose che faceva lui, abbiamo fatto un'associazione. Questa associazione si occupa di diffondere, o perlomeno di cercare di diffondere, la cultura della montagna e il rispetto dell'ambiente, e quindi anche attraverso una rassegna di cinema e di incontri con vari personaggi che si occupano di montagna o che la montagna la vivono, per cui è nata la rassegna Vette in Vista. Vette in Vista è l'espressione di una città di pianura che però guarda con affetto e con molta partecipazione alla montagna. C'è una sezione del club alpino abbastanza importante con oltre 800 soci. L'Umbria è un territorio montuoso, è un territorio bellissimo, dove le montagne forse non raggiungono altitudini elevate, però sono di una bellezza veramente a volte sconvolgente, anche se adesso è stata offesa, ma insomma è normale che accada. Il terremoto non è un evento, è un evento disastroso perché l'uomo non sa fare bene il suo mestiere, ma la natura vive comunque insomma di sommovimenti, di scosse e di mutamenti. Forse siamo noi che non siamo capaci di coglierli, di valutarli e di accettarli e di adeguarci. Nasce Vetta in Vista. Ogni anno questa manifestazione si compone di 4 giornate, comincia il giovedì pomeriggio e finisce la domenica pomeriggio o la domenica sera, a seconda di quello che noi abbiamo. In ogni giorno c'è una programmazione di film che prendiamo o da Trento Film Festival o alla Cineteca del Caio, oppure tutte e due insieme, oppure li cerchiamo anche attraverso contatti diretti. Poi cerchiamo di invitare vari personaggi dell'alpinismo che possano parlare ognuno per le proprie esperienze e ognuno per i propri sentimenti. Quest'anno particolarmente invece, dato che l'anno scorso c'è stata la scomparsa di un caro amico dell'associazione di noi, purtroppo parlo di Roberto Iannilli, abbiamo cercato di, in qualche modo di ricordarlo, ma di farlo conoscere a più persone che magari non lo conoscevano abbastanza bene come noi, e lo ricordiamo in un pomeriggio dedicato a lui. Come associazione e come club alpino abbiamo aiutato l'anno scorso un ragazzo non vedente di Terni. Pur non essendo vedente, ha avuto sempre un buon rapporto con la montagna, arrampica, ha vinto varie gare per l'arrampicata, è stato seguito da un nostro caro amico nel suo percorso di approcciarsi verso questo tipo di sport, e poi dal tipo di sport è passato ad un approccio, diciamo così, di conoscenza, e quindi anche il cammino è diventato importante, non solo l'arrampicata ma anche il cammino, e quindi comincia a capire che l'arrampicata qualche volta, il climbing è propedeutico al conoscere l'ambiente montano, se si vuole ovviamente, o una parete. E quindi ha tentato l'esperimento del trekking al campo base dell'Everest, che è un trekking medio difficile, quindi già c'è, cioè, 4.000 metri mi sembra, ma non è arrivato al campo base. Però tutto questo non implica che non ci riproverà, e noi per questo l'abbiamo aiutato e ci ha fatto piacere aiutarlo. Io ogni mattina quando parto lascio aperta la mia porta se qualcuno verrà. E poi metto polvere di gesso sul pavimento di casa per i passi che farà. Perché quando c'è una porta aperta, di sicuro prima o dopo si sa. Allora, ricordando che di Roberto Iannilli è recentemente uscito un libro postumo, Compagni dai campi e dalle officine, semplicemente prima di salutarci e di dare, anzi diamo subito i riferimenti, nel senso che la 4 giorni dal 2 al 5 febbraio sarà a Terni allo spazio Caos, centro arti opificio Siri di via Luigi Campofregoso 98, trovate sia su Facebook che su Umbre Eventi o sul sito dell'associazione Precipizi Relativi i riferimenti. Ti chiederei semplicemente di citarci, visto che non di sola rassegna cinematografica si parla ma anche di incontri, chi saranno gli altri ospiti di questa nona edizione. Allora, nella nona edizione e anche grazie soprattutto al supporto della società dello calzaturificio Scarpa, avremo come ospite Marco Confortola, e questa è la serata di sabato. Pomeriggio di domenica è dedicato al concorso video di montagna. Noi tutti gli anni all'interno di Vetta in Vista viene editato un concorso riservato a video, riservato a filmati video che non abbiano una durata superiore a 20 minuti, e il concorso è dedicato a Valentino Pavarelli, che era un socio del CAI, un socio fondatore della nostra associazione, un grande amico di Stefano, un antropologo e anche un ricercatore nel campo etnomusicologico. Come sempre, come tutti gli anni, il concerto di domenica pomeriggio che il coro Terra Maggiore del CAI di Terni ci farà, quest'anno in particolare a loro si aggiunge anche la Fisorchestra Fancelli, e poi chiuderà il programma invece un pensiero rivolto ai territori della Valnerina feriti e dal terremoto, sconvolti dal terremoto, praticamente con i Vagabondi della Valnerina, che è un gruppo ternano da poco nato, che però come obiettivo ha lo sviluppo del trekking in questi luoghi, cercando di riportare gente laddove la gente purtroppo se n'è andata. Buongiorno Paolo, bentrovato. Partirei subito, entrando nel merito del nostro corso di appunto pedagogia della montagna, con le differenze tra l'andare in montagna in estate e l'andare in montagna in inverno. La differenza dell'andare in montagna tra l'estate e l'inverno è notevole, non dipende solo esclusivamente da un fatto di temperatura, in particolar modo quando poi ci riferiamo alle condizioni del sentiero che andiamo ad affrontare. Assicuro che lo stesso identico sentiero fatto nella stagione estiva è completamente diverso farlo nella stagione invernale, a prescindere che ci siano precipitazioni nevose o meno. Questo per una serie di fattori. Allora, in primo luogo bisogna iniziare a pensare che spesso e volentieri quando affrontiamo il sentiero durante il periodo estivo, sia nel pieno anche della parte vegetativa del sottobosco o del bosco, e che quindi la presenza anche di fogliame e di altre cose a terra è meno presente che durante la stagione tarda autunnale ed invernale. Questo implica il fatto che di solito il sentiero è di per sé più sgombero, sia perché magari c'è stata una manutenzione tardo primaverile o anche perché la maggiore frequentazione escursionistica fa sì che il sentiero sia pulito. Cosa significa questo? Significa semplicemente avere maggiore visibilità su dove si va ad appoggiare i piedi. D'inverno la situazione cambia notevolmente. Su questo potremmo anche già entrare su alcuni piccoli consigli per quanto concerne eventualmente la scelta di un itinerario piuttosto che di un altro. Il primo che mi sento di dare è che sicuramente l'esposizione del versante all'interno del quale il sentiero si snoda non è cosa di poco conto. Se durante il periodo estivo di questa cosa ce ne possiamo tranquillamente disinteressare, perché bene o male lo affrontiamo tendenzialmente con una buona giornata, quindi con un soleggiamento tranquillo, d'inverno invece cambia notevolmente, nel senso che affrontare un sentiero di cui si sa a priori che si snoda ad esempio in un versante nord cambia notevolmente, perché significa che quel sentiero non riceverà o molto poco, se non addirittura nulla, nessun tipo di radiamento solare, e questo implica il fatto che il terreno al suolo avrà sicuramente una temperatura molto più bassa, vi sarà sicuramente o è molto probabile delle conformazioni di ghiaccio o di vetrato sul sentiero, e questo implica sicuramente un, anche un'attrezzatura diversa rispetto a quella che si va notevolmente ad avere soprattutto ai piedi durante il periodo estivo, ma magari su questo ci entriamo in un secondo momento. Un altro aspetto da tenere in considerazione è anche a secondo del luogo in cui si sceglie di andare a fare un certo tipo di escursionismo, nel senso che in particolar modo una differenza notevole c'è tra montagne dell'arco alpino e montagne dell'arco prealpino. In che senso? Nel senso che è molto più probabile trovare sulle montagne dell'arco alpino, quote tendenzialmente sotto i 2000 metri, la presenza boschiva di tipo conifero, quindi abeti, larici, pini. Questo implica il fatto che il terreno notoriamente ha una conformazione molto, diciamo così, più morbida, meno sassosa, molto più anche comoda e facile da percorrere, e con un sottosuolo così acido dovuto in particolar modo alla conformazione degli acuri delle conifere, fa sì che la glaciazione sia molto meno presente, la temperatura sia più alta a livello del suolo, e questo sicuramente aiuta, diciamo così, a non trovarsi in una condizione invece particolarmente diversa ed insidiosa, quale quella che si ritrova spesso e volentieri invece nell'arco prealpino, dove una vegetazione di boschiva di tutt'altro genere fa sì che ci sia maggiore fogliazione sul terreno, che ci sia una conformazione sassosa che spesso e volentieri emerge proprio dal terreno e che rende anche un po' più difficoltosa anche durante il periodo estivo la percorrenza di alcuni sentieri, visto e considerato che questa trasmissione fondamentalmente viene ascoltata dalle ascoltatrici e ascoltatori della Lombardia. Per capirci, le prealpi lecchesi, i sentieri che vanno alla Grigna, alla Grignona, alla Resegone, queste, eccetera, eccetera, sa benissimo di cosa stiamo parlando, cioè sentieri comunque estremamente anche difficoltosi da un punto di vista fisico proprio per la presenza rocciosa e sassosa che affiora dal terreno. E questo sicuramente è il primo consiglio che mi sento di dare, è proprio quello di seguire e di scegliere accuratamente il versante che si va a percorrere, il tipo di terreno che si andrà a incontrare, quindi a seconda che sia arco alpino o prealpino, e soprattutto considerare anche altri fattori importanti, ad esempio l'evoluzione meteo, l'evoluzione della temperatura anche al suolo. Ormai vi sono in internet diversi siti che registrano le temperature al suolo delle varie località, e questo sicuramente nella scelta di un itinerario qualche giorno prima permette già di farsi un'idea su che tipo di terreno si potrà andare a trovare. Altro elemento estremamente importante, bisogna considerare, che sembra una banalità, ma che le ore di luce d'inverno sono estremamente ridotte rispetto a quelle estive, e quindi trovarsi in qualsiasi sentiero al buio ed eventualmente addirittura senza pile frontali per percorrerlo sicuramente aggrava e peggiora la difficoltà. Certo. Questo non significa assolutamente fare del terrorismo psicologico, non è nostra intenzione con questa nostra programmazione, anzi è quella di aiutare a vivere in maniera più serena possibile l'attività in ambito alpino, ma sono tutti elementi da tenere proprio fortemente in considerazione, di non considerarli banali di sottoconto, perché in realtà sono quelli che poi in montagna fanno la differenza. Per andare a chiudere questa prima puntata, però, allora entrerei ancor più nel dettaglio di uno degli strumenti più importanti per andare in montagna, anzi il più importante probabilmente, e ancor di più nella differenza tra l'estate e l'inverno, e cioè gli scarponi. Cosa possiamo dire su questo strumento? Diciamo che sicuramente per quanto riguarda le scarpe il mercato è estremamente vario. Posso dire che per quanto riguarda la differenza estate-inverno, delle tipologie di scarpe molto leggere che anch'io particolarmente amo nel periodo estivo e che assomigliano ormai sempre più, diciamo così, a delle scarpe da skyrunning, quindi una tomaia leggera con delle suole ormai di gomma estremamente leggere, ecco, d'inverno sicuramente sono da escludere per vari motivi. Il primo è per la tenuta sul terreno, che sicuramente hanno meno presa perché hanno un grip a livello di suole, un taglio delle suole, i materiali con cui vengono fatte, la notoria Vibram, per capirci, non viene usata su questo tipo di scarpe. E poi un altro problema non da poco è che sono estremamente leggere, che quindi i piedi si raffredderebbero abbastanza in tempi brevi. Per cui è sempre meglio adottare, per quanto riguarda l'escursionismo invernale, degli scarponcini, diciamo così, di tipologia classica, non eccessivamente pesanti, ma anche semplicemente per affrontare una dimensione escursionistica in ambito invernale, considerando anche il fatto che si possano trovare, come dicevamo prima, tratti innevati e tratti ghiacciati, è preferibile avere uno scarponcino alto, quindi sicuramente che avvolge bene la caviglia, che abbia la possibilità quindi di avere un'allacciatura comoda, che il materiale sia o di vari pellami come quelli che adesso vengono adottati, o anche semplicemente con il classico Gore-Tex che viene usato anche per quanto riguarda le calzature, alle quali puoi eventualmente associare una ghetta alto o bassa a seconda, in modo tale che il piede abbia totale copertura e totale isolamento termico. Questi sono sicuramente i requisiti che deve avere una scarpa di montagna per poter affrontare il terreno invernale. Sicuramente i prezzi variano, mediamente un buono scarponcino da montagna s'aggira tra i 100 e i 150 euro, quindi significa che magari trovare delle scarponcini che vadano al di là di questo prezzo significa forse scegliere un qualcosa di estremamente tecnico che forse non è indicato, come eventualmente trovare delle scarpe che costano decisamente meno di questi costi significa che la qualità purtroppo non è delle migliori, e poi queste cose appunto le si scontano sul terreno in situazioni che tra volte si ritrovano pericolose. C'è da dire una cosa però, che a secondo della tipologia di scarpone che si va a scegliere, anche per quanto riguarda l'attività escursionistica, io considero di fondamentale importanza, se non addirittura obbligatoria davvero nello zaino, sono i ramponi. E i ramponi, per le tipologie che ci sono, hanno necessariamente la necessità di avere delle tipologie di scarpe di un certo tipo. Se abbiamo tempo possiamo affrontare questo discorso adesso, oppure eventualmente lo affrontiamo nella prossima puntata. Guarda, io per i tempi e per la completezza di questa prima, ti direi che assolutamente sfruttiamo l'interesse che abbiamo creato sul tema dei ramponi per dare appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima settimana con una nuova puntata della rubrica di Pedagogia della Montagna, in cui appunto ripartiremo dai piedi, dagli scarponi, ma in particolare dai ramponi, come ha appena accennato Paolo, e proseguiremo, come promesso, nel nostro percorso formativo e informativo di confronto con gli ascoltatori. Rinnoviamo la richiesta e l'invito a scriverci, a farci domande, a critiche, suggestioni, insomma tutto quello che vi può interessare sui temi che abbiamo iniziato a trattare, e ringraziamo Paolo per la disponibilità e la completezza delle informazioni che ci ha fornito. È stato un piacere, per le ascoltatrici e gli ascoltatori ricordiamo che per qualsiasi dubbio, confronto, consigli siamo a disposizione anche per interloquire nelle prossime puntate. Allora, la prossima puntata partiamo dai ramponi, che sono quelle cose di ferro che qualcuno dice chiodi sotto i piedi. Ripartiamo da lì e faremo un po' di chiarezza anche su questo utile e indispensabile strumento per andare in montagna. The chef prepares a special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Your life is fine, it's sweet and sour, unbearable or great. You gotta love every hour, you must appreciate. This is your time, this is your day. You've got it all. Special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Melted tin beads cast your fortune in a glass of wine. Snail or fish, balloon or dolphin, see your silver shine. This is your time. La montagna è un modo di vivere la vita, un passo davanti all'altro. Silenzio, tempo e misura. Con queste parole, prese dalla quarta di copertina, introduciamo la recensione del libro di stasera, Le otto montagne, l'ultima fatica letteraria di Paolo Cognetti, scrittore milanese che si divide tra città e baite a 2000 metri d'altezza per la sua vita quotidiana, ed è un libro edito da Einaudi che ci introduce su un modo diverso di parlare la montagna. Ci sono libri che per raccontarci dei monti, per raccontarci degli ambienti alpini evocano vicende, epopee, luoghi, ricorrono alla potenza delle immagini. Ecco, tutto questo non è presente nel libro di Paolo Cognetti. Le otto montagne semmai è un romanzo, a volte anche a tratti anche intimistico, è la storia di un ragazzo che poi diventa adulto, uomo, di un'amicizia, di una famiglia e di un luogo, Grana, un paesino ipotetico ai piedi dell'unico luogo vero citato, il Monte Rosa, ma che fa da sfondo a un romanzo dove la montagna viene utilizzata proprio come nelle parole che abbiamo utilizzato come introduzione, non tanto per narrare gesta o itinerari spericolati, ma proprio per raccontare la montagna come modo di vivere, come quotidianità, come lento scorrere del tempo dettato dai ritmi della natura e delle stagioni, come difficoltà di vivere in valli lontane dal turismo di massa, lontane dall'antropizzazione dei caroselli sciistici o delle strade che arrivano a 2500 o più metri d'altezza. Ecco, nelle otto montagne scopriamo una montagna autentica, una montagna come era sicuramente una volta, fatta di difficoltà, di stenti, di miseria, di lunghi inverni passati con polenta e pochi altri alimenti, e di estate passate invece in alpeggio a condurre mandrie e a andare su per dirupi, per creste, per valloni, così alla vista, senza bisogno di GPS, senza bisogno di materiali tecnici, ma solo portati dalla curiosità, dalla voglia di scoprirsi nello scoprire questi ambienti selvaggi e così a volte severi. Questa montagna che ormai nel nostro paese è confinata a pochi luoghi, nel Piemonte, nella Carnia, nell'estremo oriente d'Italia, piuttosto che e soprattutto nelle vallate appenniniche, ed è una montagna che ancora in questi giorni ci viene ricordata nelle tragedie, dei drammi che colpiscono le popolazioni terremotate del centro Italia, come una montagna da cui si fugge proprio perché è difficile spesso viverci e accettarne le severe condizioni che impone. Le otto montagne crediamo che sia un libro che riesce a rendere molto bene tutto questo, ad affascinare a questi ambienti alpini che siamo convinti piaceranno agli ascoltatori di Picchi di Frequenza e delle libere frequenze di Radio Onda d'Urto. Un libro che ci fa capire come la montagna, al di là della bellezza dei luoghi e della serenità e del benessere che ci dà da un punto di vista fisico, sia anche un luogo dove spesso noi possiamo metterci alla prova con noi stessi, con quello che siamo, con le nostre miserie, con le nostre virtù e con i nostri ricordi. E crediamo che questo romanzo lo renda bene, e non vogliamo raccontare in altro, vi invitiamo a leggerlo perché, appunto, come dicevamo prima, la montagna è un modo di vivere la vita, e nelle otto montagne il modo di vivere la montagna che viene così mostrato ci piace veramente tanto. A presto. Meno tempo del solito per andare a conclusione di questa puntata 51, i riferimenti ormai li conoscete, per mettervi in contatto con noi anzitutto l'indirizzo mail abo@inventati.org, sul social network azzurro all'account @abuzzo3 o quello blu alla pagina Picchi di Frequenza. Non ne parliamo mai abbastanza, abbiamo anche un sito, si chiama amonte.info, è tutto nuovo, andateci a dare un occhio e aiutateci a far conoscere il podcast di questa trasmissione anche a chi non ha la possibilità di seguirci in FM ogni venerdì. Noi invece ci risentiamo per l'appunto venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.